Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono le 11.09, una giornata uggiosa a Milano. Io vorrei partire da una riflessione a voce alta. Voglio poi che voi mi diciate subito cosa ne pensiate, che cosa vi attiva. E inizierei a chiedervi di guardarvi intorno. E secondo me, senza molta fatica, vi accorgerete che noi siamo davvero in una società di infiniti paradossi. Il troppo sta a fianco del poco, del nulla, il tanto va a braccetto con il pochino, col misero, senza soluzione di continuità. In una frammentazione in cui spesso noi per primi ci perdiamo, vi faccio questa premessa un po' generale, un po' forse nebulosa, perché credo che ci aiuterà ad entrare nel tema di oggi, che è la fame. Noi siamo figli di generazioni passate, pensiamo ai nostri genitori, che hanno vissuto con lo spettro della fame. Oggi la nostra è una società che invece deve imparare a gestire l'abbondanza, l'eccesso di sazietà, e trovare un equilibrio tra fame e sazietà, un processo che dovrebbe essere fisiologicamente regolato da stimoli interni al nostro corpo, è sempre sempre più difficile. Allora oggi insieme a voi cercheremo di capire quanto è sana la nostra fame e come eventualmente poter rieducare. Intanto ho chiesto subito al dottor Attilio Speciani di venirmi a dare una mano, lui è tornato volentieri. E sono più che felice di essere qua oggi, è un tema che mi affascina questo. Dottore, effettivamente noi cittadini del terzo millennio abbiamo con il cibo un rapporto un po' strano, almeno rispetto al passato. Come mai molti mangiano senza neppure sentire la fame? Rischiano di mangiare troppo, e altri invece si affamano, no? Non introducono cibo anche quando il loro corpo glielo chiede, si fa sentire in ogni modo. Ovvero, perché le nostre, possiamo chiamarle abitudini alimentari, stili alimentari, se sono così modificate tanto di diventare quasi patologiche, no? Un po' schizzate. Trovo la domanda e la considerazione veramente piacevole. Tra l'altro una frase appena detta, che noi siamo cittadini del terzo millennio, ma i nostri cromosomi sono gli stessi che abbiamo da 800.000 anni, cioè sono quelli con cui abbiamo imparato a vivere, a sopravvivere proprio alla fame. Quindi se negli ultimi 10.000 anni abbiamo iniziato ad avere un po' di agricoltura, un po' di allevamento di bestiame, eccetera, ma negli ultimi 50 anni iniziamo ad avere l'abbondanza, ecco che non è che i nostri cromosomi possono cambiare nel corso di una o due generazioni, ce ne vorranno forse decine e decine e decine. Non cambiano i mariti? Ma no, dopo infatti, anni no. Di matrimonio vuole che cambiano i cromosomi. Il termine è carino, viene detto che noi oggi siamo dei thrifty genotype, cioè abbiamo dei cromosomi risparmiatori, cioè abbiamo ancora fame, noi siamo gli stessi, come dice la siamo scimmioni con abiti firmati, no? E quindi farsicano un po' meno il peli. Esatto, per cui manteniamo questo dato. E la fame quindi è un elemento importante, significa che è un segnale che noi possiamo imparare a modulare. Ci sono anche delle tecniche, dei trucchi. E quindi se la fame la sentite, vi sembra di sentire sempre troppa fame, o se la state un po', no? Tenendo un po' troppo sotto controllo, se non siete mai sazi o non sapete bene, no? Quando è tempo di mangiare, se mangiate magari per abitudine. 800 24 00 24, un argomento intrigante, lo sarà ancora di più con i vostri contributi, le vostre telefonate, i vostri messaggi al 349 238 6666. Sono già arrivati dei messaggi sul nostro profilo Facebook, allora io direi proviamo a riflettere. Abbiamo preparato alcune domande in redazione che possono, credo, mi auguro, attivare la nostra conversazione. Andiamo. Riconosci il tuo senso di fame? Ti è chiaro quando sei sazio? È lo stimolo della fame che ti spinge a mangiare o altro. Ti capita di mangiare anche se non provi appetito? Magari semplicemente per abitudine? Ti succede di passare davanti a una vetrina colma di cibi invitanti e deliziosi e di fermarti a comprarne qualcuno perché non resisti? Ti succede di provare una fame incredibile, ma di importi di non mangiare in nessun modo, fino a che dopo un po' di tempo hai praticamente annullato la sensazione che ti imponeva di mettere qualcosa sotto i denti? Allora, raccontiamoci, perché mi racconterò anch'io. 800 24 00 24. l'altro avete capito che le domande non erano finalizzate a rilevare risposte giuste o sbagliate, bensì servivano proprio a farci riflettere. E intanto che voi meditate o scrivete o chiamate, io saluto l'ospite che è in linea con noi, il professor Nicola Mercuri, membro della SIN, che è la Società Italiana di Neurologia, ed è ordinario di neurologia all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Professore, come nasce dentro di noi la fame e come si spegne? Questa è una domanda che richiede, cioè, abbastanza complessa, però diciamo, se vogliamo semplificare, sicuramente la fame nasce per il fatto che a livello cellulare cominciano a mancare le sostanze nutritive, cioè mi riferisco al glucosio, agli acidi grassi e quindi anche i lipidi. Questo fatto qui instaura nel cervello una sensazione di fame, proprio perché nel cervello esiste un nucleo, principalmente a livello dell'ipotalamo, che è la zona bassa del cervello. Questo nucleo si chiama nucleo arcuato, e in questo nucleo vi sono due, diciamo, sottopopolazioni neuronali che hanno una funzione contraria, mentre esiste un centro, diciamo così, che quando attivato ci fa aumentare il senso di fame. Chiaramente questo si attiva quando mancano i nutrienti. Esiste poi un altro centro che invece ha funzione opposta e ci dà, diciamo così, la sensazione di sazietà. Quindi il gioco opposto di questi due centri ipotalamici, sostanzialmente, che fa sì che noi entriamo nel ciclo fame-sazietà, cioè alimentazione-sazietà, quindi si hanno quelle oscillazioni circadiane, cioè che vengono durante la giornata, che ci spingono a mangiare ad orari particolari durante il giorno. Questo è quello che succede sostanzialmente. Ma quello che mi chiedo, vedendo anche, no, le storie e sentendo, ascoltando le storie di persone che con la fame hanno un rapporto quasi patologico, è possibile, mi chiedo, alterare in modo potente questa specie di comportamento che è programmato, innato, no? Perché ci assicura la sopravvivenza, ovvero sentirla quando non c'è oppure non sentirla quando dovrebbe esserci? Cioè, questo è possibile perché abbiamo, diciamo così, delle situazioni patologiche che tutti noi vediamo, cioè abbiamo delle situazioni, cioè l'obesità per alcuni aspetti è una forma di patologia, in cui proprio come avete detto inizialmente, in un fatto che abbiamo a disposizione in ogni angolo della strada la possibilità di acquisire cibo che a noi per esperienze precedenti ci solletica, cioè sì, che nel solletica ci piace, ci induce a mangiare in maniera, diciamo così, non fisiologica, quindi, e questo ci fa accumulare grasso. Insomma, e a tentazione è la tentazione, apre il buco nello stomaco. Lei, professore, che si occupa proprio di questi sottili meccanismi, che rapporto ha con la sua fame? Diciamo, a livello personale cerco sempre di fare una buona colazione la mattina, in maniera tale poi durante l'attività lavorativa, che purtroppo per noi dura tutta la giornata, e di non avere, diciamo così, delle pesantezze, perché anche c'è il rapporto tra il cibo e anche il sonno e sonnolenza, e quindi questo è da evitare durante diciamo così l'attività diurna. E poi faccio uno snack, cioè magari mangio un primo, un secondo di pranzo, e poi la sera, diciamo, anche magari mangio il primo che non mangio. Dottor Speciani, che voto diamo al professor? Ma direi, essendo collega, devo dire bravissimo, eccetera. Poi in realtà ci sono magari alcune considerazioni da fare. Ad esempio, proprio io sostengo, come giustamente dice il professor Mercuri, per cui ci sono questi aspetti di questi nuclei, e una delle cose importanti, io da immunologo ho imparato, studiando le cellule immunitarie che vanno dappertutto, che a volte fermarsi solo alla lettura dei singoli nuclei, dei singoli organi, quando c'è un all'intorno che è importante. Ne cito una per tutte, no? Perché ad esempio proprio questi nuclei stessi sono vicini ad esempio al nucleo della sete. Spessissimo una situazione che noi confondiamo per fame, perché i nuclei della sete sono attivi e dicono hai sete, tu credi di avere fame, bevi un bel bicchierone d'acqua e la fame si calma. Questo è il primo consiglio, ma ne daremo molti. 800 24 00 24. Professor Mercuri, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata e io vado nella provincia di Ancona. C'è Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti? Allora, il mio problema è che di fatto io sono obesa, però non mangio, secondo me non mangio mai. Poi chi mi vede ha sempre qualcosa in bocca, ma non sono particolarmente golosa, cioè non è che io passo davanti a una pasticceria e si ferma e si fa un bignè. Però mangio sempre, come mi capita qualcosa sotto mano la metto in bocca, e anche se non ho fame, cioè io la fame non la sento di fatto, perché posso mangiare all'infinito come posso non mangiare per una giornata se magari sono in viaggio oppure non ho portata di mano del cibo. Ma a fronte di questo poi la mia obesità è sempre cresciuta nel tempo per tutte le diete che ho fatto. Che al lei, momento ecco, hanno... lei Maria Grazia ha aggiunto forse un dettaglio che il dottor Speciani ha subito colto, e c'è anche queste diete ripetute. Esatto, la dieta ripetuta, e io proprio riprendo anche quello che abbiamo detto prima, perché in realtà quello che dice la nostra ascoltatrice, dice: ma io non mangio tanto eppure continuo ad ingrassare. Allora questa cosa è verissima, arrivano delle persone in studio quando ti cercano che in realtà stanno mangiando 1100 calorie, 900 calorie, fanno una fatica tremenda e in realtà effettivamente ingrassano. Perché? Perché sono stati dati dei segnali scorretti. Questa è una cosa fondamentale, cioè l'organismo risponde quando riceve dei segnali. Se, come in parte si diceva poco fa, la prima colazione è un segnale veramente potente di ricchezza, che significa io sono ricco, ho mangiato una prima colazione potente, i cromosomi, quelli del paleolitico di 1 milione di anni fa, dicono: caspita, ce l'abbiamo, non abbiamo bisogno di cercare altro, e improvvisamente questo ormone potente, che è quello che ti fa cercare lo zucchero, sparisce dalla circolazione. Dice, per 12-24 ore e basta. Il mio lavoro. E a quel punto non metti in moto questo meccanismo perverso, che invece quando si mangia poco si fanno diete ripetute, per cui l'organismo dice: sono in una condizione di povertà, quindi qualsiasi zuccherino mi arrivi dentro, anche se poco, anche se modesto come calorie, la prima cosa che faccio lo metto in grasso perché ho paura di morire di fame. Quindi quello che ci raccontava l'ascoltatrice è giustificato. Infatti un'ascoltatrice mi scrive: ingrasso solo sentendo il profumo dei cibi, quindi neanche mangia, già solo dal profumo si ingrassa. Ma è proprio perché le persone si svegliano al mattino dicendo: non devo mangiare, non devo mangiare, non devo mangiare. Poi in realtà, in modo inconsapevole, alla sera, dopo aver fatto magari una dieta iperipocalorica, cioè nel senso super ipocalorica, mangiando pochissimo, improvvisamente sgarrano mostruosamente. Se non sgarrano quel giorno, sgarrano il giorno dopo. Anzi, poi c'è un esempio che mi viene in mente, proprio recentemente ho visto una persona, in uno dei libri se ne parla, in cui la convinzione per questa persona era di essere bulimica, e ti diceva: io mi sveglio di notte improvvisamente ogni tanto e svuoto il frigorifero. Sì. In realtà abbiamo semplicemente andata dallo psicologo, dall'omeopata, dal neurologo, hai visto tutti i possibili specialisti, e ha detto: ma qualcuno ha conteggiato le calorie che mangi durante il giorno? No, abbiamo fatto un semplice elenco di cosa mangiava. Mangiava 700 calorie in giornata perché era sotto dieta, quindi il corpo aveva solo fame, non era bulimica, era affamatissima, ma giustamente affamata, povera Stella. Andiamo da Patrizia, che ci chiama dalla provincia di Verona. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Mi erano caduti un attimo gli occhiali, allora non leggevo più il suo nome dal monitor. Sì. Allora, io sono una sessantenne che comunque nella sua vita ha fatto 3-4 diete, e tutte le volte che ha fatto le diete comunque è dimagrita. Ripeto, io quando sono di 15-16 kg fuori peso mi sento pesante, ingolfata. Beh, perciò mi metto a dieta, perché io alle volte guardo delle donne o degli uomini obesi, tipo obesità gabibbo, e non so come facciano a camminare e a volare leggeri, perché io appena sgarro di 15-16 kg. Di 15-16. Patrizia, 15-16 kg è un bambino di 4 anni, 3 anni, no, un po' meno, 2 anni, no, tanto, insomma, 15-16 kg mi sembrano tantini. 80 anni incidono su uno schiacciamento delle vertebre Certo. Tutti mi ripetono in tutte le salse che io devo dimagrire. Poi volevo fare un altro punto: io sono figlia dei genitori del dopoguerra, cioè finisci tutto quello che hai nel piatto. E penso che sia un grosso problema per tutti quelli della mia età, perché avanzare è peccato, non se ne parla. Dottor Speciani, condizionamenti, i condizionamenti che abbiamo ricevuto, sono tosti, nel bene e nel tosti, male con l'educazione, pesano anche sulla nostra linea, sul modo in cui noi sentiamo e rispondiamo allo stimolo della fame. Tra l'altro devo dire, sono in un ambiente di trasmissione, però molto, devo dire, la pubblicità televisiva e radiofonica ha costruito dei modelli di riferimento che non sono i migliori, e soprattutto se confrontiamo un po' la condizione italiana con quella di altre nazioni, pensiamo solo semplicemente alle persone che vanno in vacanza in Trentino o nel nord Europa, no? Dove incontrano delle prime colazioni fantastiche, tornano e dicono: sono più rilassato, ho perso 2 chili, ho mangiato come un lupo. Sì. E allora questi sono dei segnali. Noi invece purtroppo la fascia italo-francese ha imparato a trasformare la prima colazione in una situazione in cui alla fine cappuccio e brioche, piuttosto che il tè con i biscottini, una fetta biscottata appena appena, cioè una colazione assolutamente scarsa. Questo è un condizionamento importante. Infatti si vede che alcune pubblicità anche adesso stanno in parte ridando valore al senso della prima colazione, ma forse siamo ancora un po' in ritardo, devo dire. Si può mangiare anche per abitudine, senza sentire il senso della fame. Spesso si mangia per fame nervosa, c'è chi divora dolciumi, cioccolato quando ci sentiamo particolarmente giù. Ci sono anche persone che mi dicono, mi stanno scrivendo, io non ho mai fame. Quindi abbiamo un rapporto davvero particolare, no? Con questa sulle persone così importante della nostra vita. Devo dire che le persone arrivano anche nei centri dove lavoro, persone che dicono non ho mai fame. In realtà, quando poi inizi a dare 2-3 indicazioni di riequilibrio sui propri ritmi giornalieri, fondamentalmente, quindi ridando un valore proprio alla ritmicità, all'abolizione magari di spuntini assolutamente non necessari, piuttosto che, cioè, ridare al corpo le proprie funzioni digestive, a rimettere in moto anche quel poco, parlavamo prima dei genitori dell'immediato dopoguerra o del preguerra, nell'immaginario ci sono persone che vanno a fare delle passeggiate, camminano, si muovono comunque, e oggi noi invece abbiamo perso la camminata quotidiana, no? Sono elementi che riportano verso un ritmo. Io mi rendo conto che quando riesci a riposizionare i ritmi, gli orari dei pasti secondo un certo tipo di modalità, le persone ritrovano una fame sana. Certo. Ma noi oggi vogliamo proprio dare anche consigli per riconoscere la fame sana, la fame Perfetto. Vera. La prima è stata quando noi avvertiamo un senso di fame, proviamo a bere un po' d'acqua. A bere dell'acqua, potrebbe essere che noi stiamo confondendo due stimoli. Poi se la fame resta, mangiamo. Però prima beviamo. Renato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Speciani. Buongiorno. E niente, la mia domanda era questa qua. Cioè, io frequento una ragazza da circa 2 anni e l'ultimo anno mi sono accorto che questa ragazza qui mi spiegava un fatto del suo strano, non so se è un problema di salute o una cosa, una normalità del suo organismo. Lei fino alle 5 del pomeriggio ha una nausea forte, non riesce a mangiare. Poi incomincia verso le 5 e si scofano un sacco di cose che io veramente un giorno rimasi anche sbalordito, perché pensavo invitasse qualcuno a casa, no? Ma non ingrassa, ha un corpo perfetto, addominali scolpiti, fa anche tanto sport, devo dire. Sì. Però la cosa che mi stupisce è sta cosa, che lei ha questa nausea fino alle 5 del pomeriggio e poi scompare, addirittura neanche da bere un caffè, per dire, alle volte al mattino. Ma poi neanche, non è che ha problemi, per dire, io per esempio se non mangio al mattino comincio a sentire gli zuccheri che calano e comincio a avere un momento le gambe molli e il buco nello stomaco. Tranquillo, Renato ci racconta anche mi suggerisce una domanda. Cioè, noi siamo, le mamme insegnavano, mangia pasto, non spiluccare durante la giornata perché poi ti rovini l'appetito, questo ci dicevano. L'assumere cibo in concomitanza degli appuntamenti, quelli che hanno la prima colazione, il pranzo e la cena, dà l'idea di una fame che è ben regolata. Sì. Mentre una fame notturna, una fame che si accende solo in una parte della giornata, ci mette un po', giustamente, come dice Renato, che si preoccupa di questa ragazza che frequenta, dice ma non mi torna. Quindi anche l'orario ci dice qualche cosa? L'orario ci dice delle cose fondamentali. Intanto mettiamo pure una chiarezza per tutti quelli che ci ascoltano, perché stiamo battendo molto sulla prima colazione come elemento, ad esempio, non ingrassante, perché in quel momento della giornata, quindi dalle 6 del mattino fino alle 9-10, c'è una dominanza di ormoni cosiddetti catabolici, cioè quelli che riescono a consumare l'energia introdotta e a trasformarla soprattutto in calore anziché in grasso. Man mano che si va avanti nel corso della giornata, invece cambiano completamente, questi ormoni qua spariscono e vengono degli altri, che sono quelli che invece portano all'accumulo soprattutto in termini di grasso o a delle modifiche anche di tipo digestivo, che potrebbero anche giustificare la nausea poi della ragazza di Renato. Quindi in effetti abbiamo visto, capiamo che quando si fanno turni ad esempio di lavoro, alcune di queste situazioni si scombinano un poco e creano dei disagi o dei problemi, per cui la regolazione, devo dire, riporta pian piano a proprio quella percezione di fame sana. Abbiamo degli ormoni che sono molto localizzati, attenti non agli orari di Carosello un tempo, sì, piuttosto che del telegiornale, ma sulla nascita del sole, e questa rimane ferma per tutti, anche a dispetto, quindi, della pubblicità o di qualsiasi altro tipo di indicazione. 800 24 00 24. Se avete troppa fame, se state seguendo una dieta ma vi sentite affamate, chiamateci, il dottor Speciani ci darà delle indicazioni, ci saranno degli alimenti più sazianti degli altri. Vi racconto allora una cosa buffa. Allora chiamateci oppure scriveteci 349-238-6666. Essere e benessere. Mamma mia che fame! Oggi parliamo di fame sana, di fame nervosa, di fame che così seguiamo, assecondiamo un po' per abitudine, no? Per ammazzare il tempo. Ci state chiamando davvero in tanti e io darei voce a Flavio, che ci chiama dalla provincia di Trento. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi e a tutti voi. Ci racconti, Flavio? Allora, intanto preciso di essere un buon gustaio. Bravo, questo ci piace. Amo mangiare bene, ho una moglie che mi fa dei piatti deliziosi, però oramai da 15-20 anni io tutti gli anni mi faccio 3 settimane di digiuno totale. Come? Depurativo, quindi non è che io lo faccia per dimagrire, sono leggermente fuori peso, ma non in maniera esagerata, sono 1,90 m per 90 kg circa. Sì. Ma mi faccia capire, lei fa 3 settimane di digiuno? Sì, senza mangiare nulla. Vado, se andiamo al ristorante con la famiglia vado anch'io, se andiamo in pizzeria vado anch'io, ma mi siedo a tavola e mi bevo un bicchiere d'acqua e prendo solo ed esclusivamente delle tisane depurative per ripulire. Infatti sento il fegato che lavora e pizzica mentre faccio digiuno, proprio perché sono delle tisane a base di erbe che mi faccio. E mi fa chiaramente avviso il mio medico curante prima, mi faccio tutti gli esami, gli analisi. E poi fa questo digiuno. E mi prendo solo dei succhi di verdure per minerali e vitamine e il resto lo faccio dall'interno. Lavoro le mie 10-12 ore al giorno. Viaggio senza problemi. Mamma, Flavio, mi sembrano davvero tante. Io non riuscirei neanche a stare in piedi. Tre settimane di digiuno, già l'idea mi... Dunque, c'è un problema specifico, che sono i primi 3 giorni, che poi una volta superati in realtà si supera una specie di crisi d'astinenza e anzi c'è un concetto di estrema lucidità mentale, tant'è che questa tecnica di digiuno è usata in molte, chiamiamole strutture, in molte sette, in molti gruppi, proprio per lavorare su un approfondimento conoscitivo. Ma noi veniamo da una tradizione cristiano-cattolica in cui i digiuni nel deserto sono sempre poi affiancati a esperienze di visione, di approfondimento, di conoscenza, eccetera, no? Quindi questo ha un senso. Devo dire, nella pratica però questo deve essere assolutamente utilizzato all'interno di una versione controllata. Io personalmente in alcune forme patologiche prescrivo una forma di digiuno, una situazione di digiuno, proprio per attivare quello che Flavio raccontava come meccanismi, ma sono situazioni estremamente rare. Devo dire, nelle conoscenze recenti ci hanno consentito di capire che è molto più utile un digiuno cosiddetto attenuato, quindi a base di frutta e di verdura, quindi non solo la verdura come sta facendo Flavio, in modo tale da avere un'azione depurativa complessiva che può essere mantenuta. A quel punto in realtà l'organismo ha determinati elementi, l'acqua, l'idratazione, i sali, le vitamine e anche alcuni zuccheri su cui lavorare. Allora a quel punto può esserci. Voglio però ricordare, questo vale sul digiuno, che nella pratica quotidiana fare un giorno di digiuno occasionale, che non è di digiuno, ripeto, frutta e verdura in abbondanza, cruda soprattutto, è una condizione positiva. Però ricordiamoci che fare un giorno di astensione di tipo alimentare, uno studio recentissimo ha dimostrato che lascia per 4 giorni successivi un ormone che si chiama NPY, il neuropeptide Y, attivo nel nostro organismo, che è quello che ci fa cercare i dolci. Quindi allora, il rischio è di andare poi a svaligiare, esatto, una pasticceria. Esatto, il rischio è quello di poi di trovarsi, oppure di dover combattere contro questo desiderio in modo conflittuale. Abbiamo desiderio di alcuni cibi più che di altri. Ad esempio di pane, di dolci. Posso leggere la rovescio? Leggiamole cosa sta facendo l'industria alimentare, diciamo in maniera un po' proditoria, così non diamo giudizi, ma che è quello di aumentare il sale e lo zucchero presenti in modo inconsapevole negli alimenti. Perché? Perché sono due situazioni, sono due sostanze che tendono a generare dipendenza nell'assunzione. Per cui noi abbiamo questo ormone che ho citato prima, NPY, l'NPY, che in realtà ci fa desiderare il dolce, quello che 1 milione di anni fa ci faceva vedere la mela al di là del ruscello, andarla a prendere per poterci nutrire. E i cibi salati erano correlati effettivamente con una ricerca, perché il sale, l'eccesso di sale, modifica delle cose a livello cerebrale. Allora, è importante capire che questi sono un po' connaturali all'essere umano, noi abbiamo la tendenza, si tratta di non innescare il meccanismo ripetitivo. Quando uno inizia durante la mattinata prendersi il suo caffè zuccherato, in realtà le persone che poi ti dicono prendo 8 caffè in mattinata non sono degli coffee addict, non sono dei dipendenti da caffè, sono dei dipendenti da zucchero, continuano ad andare a prendere il proprio zucchero che continua ad avere bisogno di essere reintrodotto ogni 30-40 minuti per mantenere una sorta di livello di dipendenza. Quindi è un tema davvero intrigante, è un tema bello che quando si affronta, quando con la singola persona affronti il modo in cui risponde al digiuno, il modo in cui sta, il modo in cui mangia, e capisci rispetto ai suoi bisogni e lo spieghi, la persona inizia a capire, diventa consapevolezza questa cosa. Quindi se vogliamo diventare consapevoli, 800 24 00 24, Silvia, buongiorno, da Piacenza. Ma in parte il dottore ha già risposto alla mia domanda. Ma guardi quanto è bravo questo dottor Speciani. Allora, il discorso è questo: l'anno scorso dopo una gravidanza avevo 3 kg da perdere, io non sono sovrappeso perché sono 1,70, peso 60 kg. Sì. Però mi sento bene a 57,5 kg. Dopo comincio a sentirmi a disagio, insomma, il mio peso forma personale io lo vedo così. Sì. Ho fatto una dieta seguita da una nutrizionista che mi ha semplicemente tolto tutti i carboidrati d'amblè e ho scoperto per la prima volta nella mia vita cos'è la fame. Comunque ho tenuto duro, ho perso i miei 3 kg, poi mi hanno dato un mantenimento, poi sono andata ancora alla deriva. Oggi voglio rifare questa dieta, non ci riesco più. Qualcosa dentro di lei si ribella. Fa bene, Speciani, fa bene, brava, fa brava, bene. Benissimo, ribellati. Benissimo, ribellati. È la fisiologia che chiede, noi devo dire, lei pensi al paleolitico, pensi a 1 milione di anni fa, dove avevamo di tutto, avevamo sì certo solo le proteine, ma insieme avevamo anche delle radici, dei tuberi, della frutta, cioè si cercava di mangiare tutto insieme. Allora, se può essere utile ad esempio nella sua situazione di dare in questo momento una certa prevalenza alle proteine, mi immagino, perché lei per ora forse rimettendo su peso ha dato una prevalenza attenta a carboidrati raffinati, bianchi, magari non integrali, che sono quelli che invece aiutano il dimagrimento. Allora mantenga per favore frutta e verdura sempre all'interno di ogni pasto, non tolga d'amblè tutto, perché una dieta fatta solo di proteine diventa pesante, come dall'altra parte una dieta fatta solo di carboidrati è pesante. Allora io vorrei dare un consiglio ad Emanuela che ci scrive da Milano, un sms al 349-238-6666. Ho 47 anni e la fame nervosa mi accompagna da sempre. In più, quando viaggio in auto per lavoro, mangerei sempre per passare il tempo. Ecco, un aiuto. Che cosa mangio? Che cosa faccio? Bevo un po' d'acqua, va bene, ma il mio suggerimento, che poi è quello che io faccio, ad esempio, quando si è nei mesi settembre, ottobre, novembre, mi prendo un grappolo d'uva, me lo tengo e mi mangio degli acini d'uva uno dopo l'altro, se ho da sedare qualche tensione nervosa mentre guido. E questo è estremamente importante, perché a dispetto rispetto di quello che alcune diete, proprio quelle che vanno a cercare i prodotti ipocalorici, dicono, il mangiare frutta o verdura, per cui possono essere i pomodorini, possono essere gli acini d'uva, possono essere le ciliegie, possono essere delle albicocche, eccetera, in realtà non ha un effetto sul peso, ma ha un effetto potente quando abbiamo magari una fame nervosa che ci sta divorando, senza grossi problemi. E qui tocco, se posso, il tema delle calorie negative. Alcuni dicono, ah, ma ci sono i cibi a caloria negativa. No, non è vero, ogni cibo ha sempre una caloria. Però prendiamo i sedani o i finocchi. Allora, un sedano, 100 grammi di sedano dentro 12 calorie. Per mangiare 100 grammi di sedano, la fatica che dobbiamo fare a masticarlo ce ne fa consumare almeno 25, quindi è vero che in quel modo possiamo anche sceglierci magari di mangiare dell'ottima frutta o della verdura cruda senza avere problemi di interferire con la linea e fermando in parte la fame. Dario, buongiorno, ci chiama da Lecce. Sì, buongiorno, buongiorno, mi complimento per la trasmissione. Allora, io volevo fare un intervento un po', diciamo, diverso dalla normalità. Vorrei chiedere al dottore, intanto premetto una cosa, circa un po' di tempo fa c'è stata una mia amica che invece della solita dieta ha usato degli integratori, dei sostituti del pasto, ha perso 18 kg, 17-18 kg e lei non rinunciava a, diciamo, al pasto libero, di mangiare tradizionalmente in maniera equilibrata tutto il resto. E praticamente mi ha fatto provare per un mese questo integratore, che è un frullato vero e proprio, e poi mi ha lasciato mangiare tranquillamente. In realtà, senza rinunciare a nulla, io mi sono tolto degli sfizi. Quasi 3 kg da sopra, anche perché purtroppo con l'attività che faccio, essendo un agente di commercio, non posso andare nei ristoranti oppure nelle trattorie o nei bar a chiedere di pesarmi questo o quell'altro cibo. E poi lei ci chiama da Lecce, Dario, come si fa a stare, dottor Speciale? No, non come si può, si non fa si può. A stare a dieta? Però ho citato i pomodorini, ho citato, ci sono ad esempio col grano duro, si fanno delle cose ottime da quelle parti. Dario, la domanda di Dario era: mi prendo questi sostituti? Dici bene, sono sostitutivi questi, non sono integratori quelli che segnalava, quindi non è un problema di integrazione, che a volte qualche integratore, cito che so il tè verde, piuttosto che, hanno delle azioni anche proprio sullo stimolo, diciamo, di riduzione di stimolo di consumo del grasso e di riduzione della fame, per dire, no? Sono sostanze naturali che si sanno hanno questo tipo di effetto. In realtà quello che lui mangiava erano dei delle buste sostitutive del pasto. Allora, la mia considerazione è che quanto più noi insegniamo ad una persona a mangiare le cose giuste nel momento giusto, tanto più otteniamo un vantaggio per il futuro, perché se questa cosa diventa trasformata, non ti do tutti gli elementi di cui è necessario a prima colazione in una specie di frullato fatto mix, ma ti insegno a mangiarti frutta, verdura, pane integrale, un po' di formaggio, 4 noci, 6 nocciole, 3 mandorle, facciamo bene all'economia italiana, non magari a quella di importazione, e impariamo a trasmettere questo tipo di conoscenza anche ai nostri figli, che è un discorso più ampio. E proprio dei nostri figli, del nostro futuro, degli adulti di domani, parleremo tra poco. Ci ha raggiunto la dottoressa Paola Reverso, nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno dottoressa Reverso. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Noi andiamo a sentire prima che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ricordiamo, ci occupiamo dei nostri bambini, perché un bambino sovrappeso con grande probabilità nel 75% dei casi, dicono i dati, diventerà un adulto più che morbido. A tra poco. Essere e benessere. Dottoressa Reverso, molti dei problemi che abbiamo con la nostra fame da grandi, da adulti, sono associati ad un cattivo rapporto con il cibo e con la fame di quando eravamo bambini. Allora, qualche indicazione per le mamme all'ascolto, ci sono già tanti messaggi di mamme che dicono, una in particolare che mi scrive, il mio Luca non mi mangia. Ecco, ed è una preoccupazione di tante mamme, oppure anche di mamme che hanno dei bambini invece che mangerebbero tutto, ma che devono tenere un pochino a stecchetto, devono farli muovere di più, ma insomma devono un po' rimpostare la dieta. Dottoressa. È un discorso, diciamo così, lungo e delicato, perché bisognerebbe proprio avere molta pazienza e insegnare ai bambini, a partire dallo svezzamento, ad apprezzare i cibi semplici e naturali, che sono quelli che fanno più bene alla salute, quindi i vegetali, il pesce, le carni bianche, che sono di solito i cibi anche meno appetibili, che il bambino magari gradisce di meno. Ecco perché ci vuole pazienza, perché bisogna proprio far capire, far apprezzare al bambino questi cibi, avvicinandosi logicamente in un modo ludico. Quindi io un metodo che uso è quello di farli cucinare. Sì. E quindi fatto il bambino che prepara da solo il suo cibo, si diverte e quindi poi lo assaggia. Certo che questo si può fare dai 3 anni in su, sempre naturalmente seguendolo con una certa, insomma bisogna stargli dietro, non è che si può mettere un bambino vicino ai fornelli, però si può iniziare semplicemente con delle piccole cose, come quello magari di mettere sopra la verdura dei semi oleosi, dei semi di girasole leggermente tostati, dei semi di lino. Quelli il bambino può prenderli e metterli, in questo modo lui vede una sorta di gioco di costruzione, ma noi cerchiamo di fargli mangiare la frutta e la verdura che magari per lui non hanno quel gran sapore, anche perché purtroppo non sempre abbiamo la possibilità, perché spesso non ha sapore, quello, spesso non ha sapore la frutta e la verdura che portiamo in tavola oggi, e quindi non ci sono più quei profumi. Io mi ricordo ancora nell'orto della mia nonna le fragole, ma c'era un profumo incredibile, e le fragole si mangiavano solo a metà giugno, quando almeno in Piemonte mi ricordo che maturavano a quei tempi. Adesso i bambini hanno fragole tutto l'anno, però della fragola non hanno più né l'odore né il sapore. Quindi il consiglio della dottoressa Reverso è: provate a farli giocare, usate la fantasia, la complicità con il bambino, e soprattutto variate, perché ci sono delle mamme che dicono a lui non piacciono, che ne so, le verdure, e cercano di fare tutta una dieta per scansare le verdure. Alla fine poi questo diventa un comportamento abituale, no? Cioè diventano, crescono poi grandi e le verdure non le mangiano più. Andrei un attimo a Davide, che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Davide. Buongiorno. Eccomi. Lei che bambino era, Davide? Oh, io, bella domanda. Io ero sovrappeso perché i miei genitori mi sovralimentavano. Sì. A 18 anni ho deciso di dimagrire, ho perso 16 kg in un anno facendo tantissimo sport e riassestando l'alimentazione. Adesso sono normopeso e sono parecchio interessato a mantenerlo. Ma più che altro anche a godermi la vita e strutturando però bene un'alimentazione. Quindi senta, ma lei, Davide, scusi, di che cosa? Quando le viene una fame improvvisa, non le capita mai di dire ho fame di cioccolato, ho fame di spaghetti alla matriciana, ho fame di che cosa dice che ha fame? Ma tendo ad avere cali di zuccheri, e allora a quel punto io sono goloso di croissant e mi fermo, mangio un croissant e da lì rinasco. E da lì rinasco. La domanda, Davide? La domanda è: un'alimentazione modello, come strutturarla? Chiaramente a seconda dell'età, ma colazione, pranzo e cena, parto dalla mia. Io ho una colazione dolce e vorrei provare quella salata, ma non so da dove partire. La colazione dolce mia è in genere un cappuccino, pane tostato, marmellata fatta in casa, succo d'arancia e siamo lì. A pranzo carboidrati e verdure, a cena proteine e verdure, naturalmente senza frutta. Davide, ma lei è quasi è quasi perfetto, Davide, o no? No, il dottor Speciani ha qualche cosa da dire, dottore. Che secondo me ci merita qualche integrazione, nel senso che la gente mette in antitesi il dolce e il salato nella prima colazione. Due suggerimenti: se la sua fetta di pane fosse una fetta di pane integrale, avrebbe già dentro il 14% di proteine. Se sulla sua fetta di pane ci mettesse un po' di ricotta con un po' di miele, avremmo un'integrazione di proteine adeguata, senza dover per forza mangiarsi prosciutto o uova. Delle noci, delle mandorle, delle nocciole sono dei semi oleosi utilissimi per l'attività neuronale, quindi per la funzione del cervello nel corso della giornata. E poi questa idea del mangiare solo la pasta con l'insalata a pranzo, io dico che secondo me è un non senso, perché ci sono dei pasti della tradizione, parlo della pasta al ragù piuttosto che della paella, piuttosto che dello spezzatino con la polenta, cioè che fanno parte della nostra tradizione, che in maniera equilibrata miscelavano carboidrati e proteine, che hanno un'azione sicuramente importante nella riduzione di questi stimoli nella ricerca degli zuccheri. Quindi delle piccole integrazioni potrebbero andare bene, lui sta facendo una dieta equilibrata, giusta, però ad esempio il non integrale è una scelta che può trasformare e darle uno spunto di salute e di benessere sicuramente più valido. Noi torniamo ad occuparci di bambini, perché in linea con noi abbiamo il dottor Giuseppe Di Mauro, che è presidente della Società di Pediatria Preventiva e Sociale. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo accennato con la dottoressa Reverso di quanto sia importante educare i bambini, stimolarli ad avere una dieta varia ed equilibrata, anche così stuzzicandoli con il gioco, quindi facendoli cucinare. Ma adesso è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute e i pediatri, e parte integrante è proprio questo progetto che si chiama Mi Voglio Bene, dove il pediatra prende davvero in mano la situazione. Ha perfettamente ragione. Oggi si parla di epidemia di obesità proprio perché sembra che tutti gli approcci, tutte le azioni siano fallite. Perché si è fallito in parte e quindi vi è ancora una percentuale altissima, anzi tendenzialmente a crescere, sia di sovrappesi che di obesi. Un bambino su due è addirittura obeso in alcune regioni della Campania, uno su tre è addirittura obeso. Perché tutti gli interventi portati finora sono risultati tardivi. Allora il pediatra che assiste sin dalla nascita deve capire, deve dare nuovi messaggi alle famiglie, che sin dal primo giorno di vita con l'allattamento al seno fa un'opera, un'azione di prevenzione, prevenzione primaria. Cioè dobbiamo cercare di non raggiungere, di non far arrivare il bambino in sovrappeso, perché un bambino sovrappeso da piccolo è sicuramente in sovrappeso. Quindi, dottor Di Mauro, alle nostre mamme all'ascolto, l'invito del presidente della Società di Pediatria Preventiva e Sociale è: parlate con il pediatra? Parlate con il pediatra delle azioni importantissime, allattamento al seno fino a 6 mesi. Svezzare non prima del 6° mese il carico delle proteine, cioè il latte vaccino per esempio, che è carico di proteine, va bandito non prima dei 2 anni. Abolire le bevande le bevande troppo gasate, caloriche, insomma reimpostare un po' la dieta, e il pediatra ci può dare una mano. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi. Dottoressa Reverso, torniamo da lei fa degli splendidi laboratori, abbiamo veramente pochi minuti, ma vorrei che ci regalasse un'idea da fare oggi con i nostri bambini. Parta pure. Potete provare a fare dei pulcini con la ricotta, mescolando ricotta e parmigiano reggiano, mettendo magari anche qualche seme di lino, seme di girasole che si trovano facilmente nei negozi che vendono alimenti naturali. Creare col bambino questo pulcino, utilizzando per fare il becco un pochino di carota, per fare gli occhi magari dei pezzettini di olive, e magari divertendolo cerchiamo di farli mangiare un formaggio un pochino più proteico, meno ricco di grassi saturi come appunto la ricotta, ricco di calcio il parmigiano, e magari li abbiniamo, giusto per abituarlo al gusto, come ha detto il dottor Speciani, una fetta di pane integrale. Magnifico, allora andiamo di pulcini. Le gambette le facciamo? Possiamo anche mettere le verdure per fare le ali e le gambette. Ma un griglio di noce sotto e un griglio dentro, che per fargli le gambettine viene fantastico. Fantastico, gli facciamo anche la base. Grazie al dottor Speciani per essere stato con noi, per averci accompagnato, alla dottoressa Paola Reverso, a voi che ci avete seguito, siete intervenuti come sempre. A domani, io vi aspetto dopo il GR delle 11. Buonissima giornata.